Buonasera cari amici Malatusi e Mortacini. Oggi parleremo al vostro Medicina 133 con il vostro Luciano preferito, Luciano Onder, del Viagra. Sapete che cos'è il Viagra? Sì, quella pillolina magica che non dovete dare a bambini perché non è dei puffi, mi raccomando. E quindi parleremo di questa pillolina per le prestazioni, che ormai con la vostra prostata mal ridotta non riuscite più ad avere. Quindi, quali sono le reazioni che si presentano dopo che si è assunto in larga quantità in eccesso questa pillolina? Iniziamo. 1. Cominci a guardare il tuo cane con uno strano interesse. 2. Cominci a pensare che quella cosa inguardabile e obbrobriosa di tua suocera è carina. Quando entri in una sauna, tutti si alzano per applaudire. Hai ucciso un passante con un bottone che si è staccato dai tuoi Levi's, ma qui non facciamo pubblicità occulta. Non hai più bisogno del telecomando, ovviamente è un brevetto di Rocco Siffredi. Se muori, ovviamente, non riusciranno a chiudere la bara per 3 giorni, però c'è una cosa simpatica, te ne sei andato venendo. Quando vai in campeggio, non hai bisogno del montante per la tenda, basta sdraiarti a terra e buttarti sul lenzuolo. È così che non fai tu la famosa canadese, ma la canadese che si fa a te. Il tuo canarino inizia a non usare più il sostegno nella gabbia. Nessun uomo vuole starti davanti alla fila al supermarket, in banca, al cinema. In compenso qualche donna repressa. Hai dovuto smontare il ventilatore del sole perché ti piace dormire sulla schiena. Tua moglie ti usa come attaccapanni. La tua amante ti usa come stendino. Perdi sempre le gare di limbo. Monica Lewinsky spera che tu possa diventare presto presidente. E nell'autobus tutti si aggrappano a te o a quella tua strana protuberanza. Ma in questi casi un pensierino ci andrebbe fatto. Cari amici, corro un attimo dal mio medico, dal cardiologo per vedere e poi me ne vado benissimamente in farmacia a comprarmelo. Non si sa mai. Saluti dal vostro Luciano Onder.